Due. Ascolta e ripeti. Dica, signora. Dicano, signore. Scusate, vi ho visto qui insieme e ho pensato... Serva pure la signora. Grazie. Senta, dove posso trovare questo spartito musicale? Venga pure. Gli spartiti sono da questa parte. Prego, signora. Faccia pure con calma. Non si preoccupi, signora. Tutta la terra in terrazza! Assolutamente no, signora. Stia tranquilla. Ci penso io.